Passo quindi la parola ad Angelo Turchini, al professor Turchini, che ci parlerà di loca pia fra società ecclesiastica e società civile. Grazie. Sono un temerario ad aver accettato questo tema e quindi sottoporrò alla vostra attenzione gli appunti frammentari che ho steso, più che una riflessione organica. Anche se magari in qualche parte c'è già una riflessione più compiuta, per il resto dovete prendere quanto vi dirò a livello di esposizione appunto problematica. Intanto una considerazione che faceva ancora molti anni fa Luigi Prosdocimi, da cui sono di fatto partito, è che nelle città italiane c'è un ricchissimo e nutrito reticolo di pia loca. Questa è una cosa su cui noi non riflettiamo mai abbastanza, ed egli provvedeva anche a effettuare una ricognizione dei medesimi pia loca, cosa che ho fatto peraltro anch'io. E però appunto la prima considerazione che mi è così venuta di fare è che è stata prestata finora attenzione, nonostante appunto la larga diffusione di queste istituzioni, è stata prestata attenzione a singole entità, non so, faccio un esempio, ospedali, scuole, altro, maggiore interesse per gli ospedali o per i Monti di Pietà, ad esempio, per gli ospedali spesso dal punto di vista della storia della sanità, della storia dell'economia, ma non c'è stata una riflessione organica sul complesso dei pia loca. I pia loca come parte di un sistema. In genere, appunto, questo più luogo, questa istituzione, attraverso il tempo, localizzata nello spazio, attenzione anche a fenomeni singoli, quanti sono gli studi su singole scuole, tantissimi. C'è anche stata un'attenzione spesso descrittiva, limitata anche a casi sporadici, e tuttavia sembra quasi di vedere questi pia loca singolarmente presi, quasi degli accidenti che si trovano lungo il percorso degli studi. Eppure una serie di grandi e piccoli enti rientrano nella categoria dei pia loca. In genere si è guardato l'aspetto magari economico, anche assistenziale, qualche volta anche spirituale, ma poco si è riflettuto rispetto alla loro natura e a quanto essa significa per i rapporti fra società civile e società ecclesiastica come luogo di incontro e confronto, di esercizio di poteri. Opportunamente al convegno sul Concilio di Trento e il Moderno Cecilia Nobla ha messo in evidenza già il ruolo di questi conflitti, il ruolo degli attori che si giocano nella società, attori che sono molteplici, dai semplici laici alle istituzioni ecclesiastiche, a quelle cittadine e rurali, dalle curie diocesane e ai poteri locali, sino a livello più alto poi di principi e papato, per il controllo di istituzioni importanti. È anche vero che sui pia loca singolarmente presi rifluisce un'ottica che io chiamerei da soppressioni settecentesche. È un'ottica che rilegge il passato da un punto di vista retrospettivo e in qualche modo anche ideologico, perché è chiaro che alla fine del Settecento esistono già altri problemi e in genere si preferisce vedere queste realtà istituzionali proprio verso la fine della prima età moderna. È un'ottica che appunto privilegia i contrasti giurisdizionali. E forse bisognerà cambiare anche un poco la logica e l'attenzione, così come questa mattina Bizzocchi metteva giustamente in evidenza. Già però da tempo, ad esempio, una studiosa come Carla Russo invitava proprio al superamento di questa logica, e parliamo di ormai una quindicina di anni fa. E allora il mio discorso si articola su vari punti. Il primo, il pia loca e la pratica della visita. Intanto, il diritto di visita, espresso dal Tridentino, viene ribadito nella legislazione conciliare. La troviamo a Milano come a Napoli. E soprattutto viene praticato nelle visite, che si realizzano secondo alcune modalità permettono di dire, di offrire, di vedere numerosi esempi di resistenza opposti al diritto di visita preteso dal Vescovo. Si va dalla petizione o rivendicazione di esenzione, di indipendenza dall'ordinario, con comportamenti conseguenti, alla riluttanza ad accettare intervento episcopale a Bologna, ad esempio ospedali e luoghi pii malvolentieri comportano le visite, e con difficoltà grande si inducono a rendere i conti dell'amministrazione, boicottando, sino al ricorso alle congregazioni romane da parte di enti pii e fabbricerie, ad esempio a Cremona, siamo all'immediato, nell'immediato post-concilio tridentino. Ma si procede anche per via non ecclesiastica e si accede, si adisce, alla competente giurisdizione o autorità civile, aprendo un contenzioso istituzionale fra autorità per l'affermazione di diritti. E qui appunto si apre il problema del riconoscimento e della legittimità. È una questione che è istituzionale e politica. La legittimità religiosa non è indipendente dal peso dei laici che essa mobilita. E per gli enti si tratta di vedere chi esercita i poteri sulla vita comune, sulla vita della comunità, chi riconosce il gruppo, quel particolare gruppo, e così via. In fondo, da questo punto di vista, noi ci potremmo porre anche l'interrogativo di che tipo di rapporto vi sia fra la Chiesa e l'ordine politico per quanto riguarda la conservazione dell'ordine, che è insieme un ordine religioso e un ordine civile, dinamico, che non esclude conflitti di concorrenza, instaurando equilibri diversi e mutevoli nel tempo e nello spazio fra le due polarità, civile ed ecclesiastica. Ed è evidente che ci sono anche problemi di coesione interna, all'interno dei medesimi gruppi, e si va anche naturalmente verso una precisazione, una separazione delle sfere, degli ambiti, sul periodo che è relativamente lungo, che si può leggere anche come crescita di peso del mondo dello spirito secolare, ma appunto rimane davanti a noi. Ci sono naturalmente anche emergenze e carenze negli atti di visita, perché se la visita è anche un esercizio di diritto, ecco che allora, se noi prendiamo in considerazione un libro spesso negli ultimi tempi non l'ho visto molto utilizzato, come quello di Carla Russo, relativa allo studio delle fabbriche ecclesiastiche nell'area napoletana, ecco che per quello studio, che pure è molto importante, gli atti di visita sono stati fondamentali. In fondo è solo grazie agli atti di visita che Carla Russo ha potuto rileggere, anzi ha potuto scoprire una vicenda che non aveva lasciato una sedimentazione, una traccia documentaria altrove. Quindi il caso di Napoli vede una attenzione particolare per le fabbricerie alla luce di un profondo intreccio fra le istituzioni locali, civili e la società, colta appunto nell'affermazione e nella difesa di ambiti di potere a partire da quanto offre l'istituto visitale, a partire dall'azione ricognitiva del vescovo e dalla conseguente sedimentazione degli atti. Gli atti delle visite non registrano, come ha avuto modo di notare la Russo, una particolare attenzione della gerarchia ecclesiastica per i laici o per i loro comportamenti religiosi, e tuttavia per quanto riguarda le fabbriche ecclesiastiche e quanto ad esse è connesso, risultano interessanti, in quanto possiamo vedere non solo la identificazione di una serie di problemi relativi agli edifici, ma possiamo vedere anche le varie forme di conflittualità per l'affermazione o la difesa di prerogative che toccano molti livelli. Allora, gli elementi all'interno degli atti visitali, di molti atti visitali, non mancano, ad esempio per quanto riguarda il tessuto delle confraternite e delle scuole, il tessuto degli ospedali, il tessuto dei monti. Certo, è variabile l'attenzione, può essere spesso molto limitata, può esservi una censura che viene effettuata, un'autolimitazione dei compiti. Certo, c'è anche l'attenzione agli edifici e all'acquisizione delle relazioni dei fabbricieri, e abbiamo talora anche tracce di interrogatori. Ci sono dei limiti, ci sono superficialità nei riscontri, perché ci si inoltra su terreni che sono istituzionalmente infidi, e ci sono delle inferenze. Talora queste inferenze vengono registrate, talora no. Ci sono silenzi, c'è la mancanza di carte amministrative, resoconti di assemblee comunitarie, e come ricordava qualcuno, talora se noi guardiamo le visite pastorali troviamo la registrazione effettuata in un certo modo in cui si dicono certe cose, se guardiamo gli atti coevi riferiti allo stesso evento visitale, ad esempio fra le carte di un ospedale, troviamo che si dicono altre cose. C'è un problema allora anche di validità delle asserzioni che noi troviamo. È certo però che queste le visite, quando toccano le istituzioni, talora parlano soprattutto quando le istituzioni confliggono fra loro e lasciano traccia appunto in processi, in controversie e in altro. Dalla attenta indagine sulle visite dell'area napoletana, la Russo metteva in evidenza come emerga chiaramente la presenza di laici nell'amministrazione temporale delle chiese, con quelle competenze che generalmente si riconoscono tipiche delle fabbricerie, che individuano con l'introduzione di elementi di modernità, come il controllo amministrativo, anche notevoli resistenze da parte di singole persone, di famiglie, di corpi, di comunità. E c'è naturalmente anche un quadro normativo dal quale non si può prescindere, anche perché gli equilibri, i dosaggi, le proporzioni, gli stessi legami devono tener conto del contesto complessivo. E addirittura per quanto riguarda l'aspetto delle relazioni, dei gruppi e delle famiglie, forse sarebbe il caso di ripensare a una battuta molto interessante, peraltro, di Bossi sulle relazioni fra la famiglia e lo Stato, ma anche fra la famiglia e la religione, e il ruolo appunto della famiglia dentro la realtà delle singole comunità per quanto concerne appunto Stato e in questo caso Chiesa. Forse una riflessione sulla famiglia dovrebbe però allargarsi alla situazione delle famiglie, perché noi abbiamo un segmento di famiglie che compare, ma dovremmo anche raffrontarci rispetto al resto delle famiglie di quella comunità, senza assolutizzare ciò che emerge dai medesimi atti. Punto 2, diritto di visita e mandati del Concilio Tridentino sono in genere molto noti. Io penso che il Tridentino attribuisce ai vescovi compiti di visita, diritto di visita sui luoghi pii, conferisce anche il potere di esecuzione delle pie disposizioni nei casi giuridicamente concessi. Attribuisce anche la possibilità di scomunica per gli usurpatori dei beni ecclesiastici, vi compresi quelli dei loca pia, e in certi casi c'è la facoltà a operare a sostegno finanziario con l'attribuzione del frutto dei benefici sottratti a non residenti e concubini. È noto che gli amministratori dovrebbero rendere conto annuale della gestione all'ordinario diocesano e restare in carica per un triennio. Nel caso che il resoconto amministrativo venisse presentato ad altri, ed era ben presente la situazione di fatto più diffusa, con le conseguenti questioni di diritto, il vescovo avrebbe dovuto essere associato o avrebbe dovuto conferire con rappresentanti altri, i rappresentanti della comunità o i rappresentanti dell'ente. Con ciò, come è stato notato, si riconosce il ruolo eminente attribuito alle magistrature secolari, perché il vescovo non prende il loro posto, ma semplicemente vi si aggiunge. E tuttavia anche così resta una presenza ingombrante. Il Tridentino si collega con la tradizione, una tradizione che viene già dai primi dibattiti del Tridentino e arriva al Concilio di Vienne, ed è richiamata esplicitamente anche per tutta una serie di...